giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Una cinquantenne ha perso la vita e il figlio è rimasto intossicato, per fortuna non in modo grave, in un incendio all'alba in un condominio di via Di Vittorio a Trieste. Nuovo appuntamento oggi alle 15 al Ministero delle Imprese e del Made in Italy per parlare del futuro del sito produttivo di Varzila a Bagnoli della Rosandra. La droga costituisce una minaccia per la salute pubblica, la sicurezza e il benessere dell'umanità. Per questi motivi è stata istituita la giornata mondiale contro l'abuso e il traffico di stupefacenti, giornata che ricorre oggi. Primi orali per gli studenti che stanno sostenendo gli esami di maturità. Siamo andati in un istituto di Udine a sentire commenti, paure e speranze. Sarà presentato oggi alle 17 alla sede di via Margaret dell'Università di Udine in diretta streaming il nuovo corso di laurea in scienze dell'educazione dell'Ateneo Friulano. Federico Balzaretti è il nuovo responsabile dell'area tecnica dell'Udinese. L'ex dirigente di Roma e Vicenza approda nel club friulano firmando un contratto fino al giugno 2025. Presentata questa mattina a Udine la rassegna Carni e Armonie, 36 concerti in 27 comuni di Carni e Valcanale e Canal del Ferro. Alle 12.31 minuti e 28 secondi, ancora un cordiale buongiorno da Sebastiano Franco e Armando Mucchino, a voi con le notizie della TGR del Friuli Venezia Giulia. Apriamo purtroppo questo giornale radio con la tragedia avvenuta all'alba di oggi in un appartamento di un condominio alla periferia di Trieste in via Di Vittorio 22. In seguito ad un incendio una donna di 51 anni ha perso la vita. Il figlio di 33 anni, soccorso dai vigili del fuoco che hanno spento le fiamme, è stato ricoverato all'ospedale di Cattinara in condizioni non gravi. Intossicati, senza gravi conseguenze, anche 3 vigili del fuoco. Sentiamo. Il rogo è scoppiato quando mancavano poco alle 5 del mattino in un palazzo di edilizia popolare alla periferia di Trieste, nel rione di Poggi Sant'Anna. Le fiamme sono partite in un'abitazione al quarto piano di uno stabile che ne comprende 11. Il palazzo è stato completamente evacuato dai vigili del fuoco accorsi sul posto con 6 mezzi per domare il rogo, definito importante dai responsabili delle operazioni. Gli inquilini hanno potuto iniziare a rientrare solamente intorno alle 10. All'interno dell'appartamento, invaso da un denso fumo nero, i soccorritori hanno trovato il cadavere di una donna, Monica Battisti, di 51 anni. La donna viveva con il figlio 33enne, che è stato messo in salvo dai vigili del fuoco con un'autoscala, facendolo uscire dalla finestra della propria camera. Il giovane è stato trasportato all'ospedale di Cattinara con sintomi di intossicazione. Ancora in via di accertamento le cause dell'incendio, che secondo le prime ricostruzioni si sarebbe sprigionato dal salotto dell'appartamento, che è stato posto sotto sequestro. Danni anche per altre due abitazioni, al terzo e al quinto piano del palazzo, che sono state dichiarate inagibili. Trieste, Daniele Letti, GTGR, Friuli Venezia Giulia. Passiamo alla pagina del tempo. Il cielo è sereno sulla regione, le temperature registrate alle 11. A Trieste c'erano 25 gradi, mare quasi calmo con temperatura di 24 gradi. Pordenone, Gorizia e Udine 28 gradi. A Tolmezzo 24 gradi e mezzo, a Forni di Sopra e Tarvisio 23 gradi. Sappada 22 gradi, Piancavallo 20 gradi. Monte Zoncolan 19, Monte Lussari 17, Lignano 29 gradi e mezzo, Grado 26 gradi e mezzo. Temperatura del mare nelle due località 25 gradi. E siamo ora alle previsioni. Oggi pomeriggio su pianura e costa cielo in prevalenza sereno, sui monti sereno al mattino, poco nuvoloso variabile nel pomeriggio, venti a regime di brezza. Domani nuvolosità variabile con rovescio e temporali sparsi, più probabili ad est e in montagna. Verso sera soffierà bora moderata sulla costa e sulle zone orientali. Giornata importante per il futuro dello stabilimento triestino di Varzila. I sindacati attendono l'esito dell'incontro previsto nel pomeriggio al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dove si discuterà sicuramente di ammortizzatori sociali. I lavoratori sperano però che emergano anche novità positive sulla reindustrializzazione. All'ordine del giorno del tavolo Varzila di oggi la richiesta da parte delle aziende di avviare i contratti di solidarietà, ma i sindacati sperano che emergano novità sul futuro dello stabilimento. Gli oltre 300 lavoratori in esubero rimasti collegati alla dismessa produzione di motori ormai non hanno praticamente più nulla da fare. Tutto è stato terminato. Per questo Varzila vuole ridurre da subito il costo del lavoro. La via maestra sono i contratti di solidarietà che passano però per un accordo sindacale. Varzila qualcosa dunque dovrà offrire. Sul piatto un allungamento della scadenza prima della quale si impegna a non licenziare, ora fissata a settembre, e un'integrazione del salario dei dipendenti che, come prevede la solidarietà, lavorerebbero tutti meno. qualcuno anche a zero ore forse. Sullo sfondo le trattative per la riconversione industriale ormai in mano di fatto al governo, dopo che l'unica offerta portata al tavolo da Wärtsilä, la startup H2 Energy, è stata giudicata inadeguata da tutti. L'augurio da parte sindacale è che l'esecutivo comunichi novità positive sul fronte di un possibile acquirente. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Passaporti e carte di identità, i consigli del comune di Udine e della questura per chi ha già prenotato un viaggio deve partire e non può aspettare i 5 mesi ora necessari per il rilascio del passaporto. Primo appuntamento per il passaporto prenotabile a Udine fra 5 mesi, a novembre. Più di 30 giorni di attesa per una carta d'identità elettronica a cui si aggiungono i tempi tecnici per il rilascio del documento, 6 giorni lavorativi per la spedizione. Il consiglio di pensarci per tempo prima di andare in vacanza alle porte di luglio è ormai quantomeno tardivo. Rispetto al passato, tuttavia, vengono in soccorso dei viaggiatori un paio di novità. Come ci spiega un'agenzia di viaggio, ultimamente ci sono stati meno problemi sulle gite organizzate perché una circolare ministeriale sollecita le questure a venire incontro alle esigenze dei viaggiatori quando c'è un biglietto già prenotato. Marco Fabbro, dirigente della divisione amministrativa della questura del capoluogo friulano, suggerisce di controllare ogni giorno dopo le 14:30 l'agenda sul portale online. Il venerdì pomeriggio in aggiunta vengono implementati i posti disponibili. Quanto al canale straordinario per il passaporto, c'è la possibilità di prendere contatto direttamente via telefono e via mail per chiedere il rilascio del passaporto in caso d'urgenza, sempre tenendo a mente che fisicamente per stampare il passaporto ci vogliono una ventina di giorni. Da metà giugno inoltre non è più necessario l'assenso dell'altro coniuge per il rilascio del passaporto quando la coppia ha figli minori. Questo naturalmente non vale per il passaporto degli stessi figli minorenni. Al comune di Udine la tempistica media per il rilascio della carta d'identità elettronica fino all'arrivo dell'estate era sempre stata inferiore ai 30 giorni. Ultimamente, ci dice Rodolfo Londero, responsabile dell'ufficio anagrafico, si aspetta qualche giorno in più. Le richieste sono in aumento del 20% e 30%. Il personale è stato potenziato, indica Arianna Facchini, assessore a demografia e statistica, che suggerisce di non ignorare l'avviso di scadenza della carta d'identità che arriva per posta, soprattutto di questi tempi. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Olaf, l'antifrode europea con sede a Bruxelles, con una nota informa di aver concluso le indagini riguardanti sospette irregolarità riguardanti appunto il programma di acquisto di dispositivi di protezione individuale prodotti in Cina e sprovvisti delle caratteristiche tecniche necessarie ai fini della prevenzione della diffusione del Covid nel 2020 e 2021 destinati a 6 regioni italiane. La regione Friuli Venezia Giulia è stata considerata interessata in questa indagine. L'Olaf, conclude la nota, non ha trovato prove di irregolarità commesse dalla regione Friuli Venezia Giulia. La solitudine, in particolare quella degli anziani. I dati del Sole 24 Ore dicono che Trieste è la provincia ai primi posti con una percentuale di persone sole del 48,6 contro una media italiana del 33,4. Anche le altre province della regione sono tutte al di sopra della media nazionale. Trieste è una città di persone sole, i dati del Sole 24 Ore lo dicono in modo chiaro. La provincia è ai primi posti in tutte le classifiche sulla solitudine diffuse dal quotidiano economico, prima innanzitutto nella classifica generale italiana per l'incidenza di nuclei unipersonali sul totale delle famiglie. La percentuale di persone sole è del 48,6 contro una media italiana del 33,4. Anche le altre province della regione sono tutte sopra la media nazionale. Gorizia al 12° posto con il 41,5%, Udine al 28° con il 39%, va meglio a Pordenone al 72° posto con il 34,6%. A pesare, e questa non è una novità, l'allungamento della vita che lascia tanti anziani vedovi e anche senza fratelli o sorelle. Ma nel dettaglio dei dati si capisce che non è questo il solo caso. Se per la percentuale di anziani soli Trieste è la quarta città in Italia, è invece prima per adulti soli, persone tra i 45 e 64 anni, ed è seconda per giovani soli, persone con meno di 45 anni. Aumentano le famiglie separate, spiega il Sole 24 Ore, e anche chi si trasferisce in un'altra città per studio o lavoro e rimane spesso con meno legami sociali. In generale si rileva una tendenza per cui la famiglia non è più il nucleo centrale della società e a questo nucleo non subentra un welfare e reti alternative. Il quotidiano sottolinea come non si tratti di una solitudine positiva e ricorda le statistiche dell'Istat che mostrano che la felicità di una persona è direttamente proporzionale alla sua rete di relazioni sociali, senza considerare che il recente aumento dell'inflazione pesa di più sui single. Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. Sono iniziate oggi le prove orali degli esami di maturità, paure, speranze e commenti dei primi studenti e commissari interessati. Siamo andati in un istituto di Udine. Messe alle spalle le prime due prove, i candidati della maturità 2023 si stanno concentrando sul colloquio finale sulla base dei calendari predisposti da ogni commissione. A dettare la linea cronologica sarà la lettera dell'alfabeto estratta lunedì scorso, il 19 giugno, durante l'insediamento della cosiddetta plenaria delle commissioni d'esame, a ritmo di 5 candidati al giorno. Tanti i timori dei candidati prima del colloquio orale, tensione che scema dopo la prova. Emozione tanta, soprattutto la preoccupazione, infatti questi giorni sono stati più che altro l'ansia per sapere l'immagine e cosa potrebbe chiedere la commissione, comunque anche cosa direzionare gli studi, ecco, in questi giorni. Risultato degli iscritti invece? Speravo un po' meglio, però comunque sono andati abbastanza bene e adesso appunto a far bene anche l'orale, così da togliermi questo peso, ecco. Ivano Fabbro, presidente di commissione. Quando si trovano delle persone strane di fronte, un pochino di remora hanno, ma la presenza di metà dei commissari interna ovviamente produce il giusto effetto e quindi li tranquillizza e loro lavorano degnamente secondo le loro possibilità e secondo le loro competenze. Qualcuno, per stemperare la tensione, è arrivato accompagnato dagli amici. L'orale l'ho già fatto, è andato bene, è stato un po' impegnativo perché bisognava gestire un po' tutte le materie, soprattutto anche l'emozione, però per il resto è tutto andato bene, tutto anche filato liscio. Soprattutto anche i professori sono stati gentili, sono stati anche molto, molto comprensivi. Udine, Giovanni Taormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Sarà presentato oggi alle 17 nella sede di Via Margaret dell'Università di Udine, in diretta streaming, il nuovo corso di laurea in scienze dell'educazione dell'Ateneo Friulano, nato anche da un attento studio delle esigenze del territorio. Ce ne dice di più uno dei docenti che ha partecipato alla progettazione del piano di studi, Davide Zoletto, professore di pedagogia dell'Università Udinese. L'iniziativa nasce da due ordini di ragioni: da un lato le emergenze educative presenti sul territorio friulano, divenute più pressanti nel contesto della pandemia, dall'altro il fatto che in Ateneo di Udine, nel Dipartimento di Lingue, Letteratura, Comunicazione, Formazione e Società, è attivo da tempo il corso di Scienze della Formazione Primaria, che è finalizzato a formare gli insegnanti di scuola d'infanzia e primaria. E la presenza di un nuovo corso rivolto per esempio anche agli educatori e educatrici del nido, dei servizi, ecco, ci permette di offrire un servizio completo su un ambito come quello della formazione che è prioritario per l'Ateneo Udinese. Che cosa prevederà come insegnamenti e quale sarà e se ci sarà una particolarità di questo corso rispetto ad altri analoghi di altre università? Beh, dunque, il corso di scienze ed educazione prevede due curricoli. Un curricolo, dicevo poc'anzi, educatore dei servizi educativi per l'infanzia e un curricolo di educatore professionale sociopedagogico, il primo rivolto a persone che desiderino operare appunto in nidi, micronidi, sezioni primavera e tutte quelle realtà integrative che soddisfano i bisogni delle famiglie e accompagnano la cura dei bambini. Il curricolo educatore sociopedagogico è invece un curricolo che forma persone che potranno operare nei presidi socioeducativi in contesti di marginalità o vulnerabilità con minori, famiglie, adulti. E per poter rispondere a questi due tipi di percorsi, il corso di laurea prevederà discipline classiche di carattere pedagogico-psicologico e poi laboratori, tirocini professionalizzanti con un focus che vorremmo proprio attivare, date le caratteristiche del territorio friulano, su temi del plurilinguismo, le aree interne, tutte quelle realtà che fotografano le specificità di un territorio come quello friulano, all'interno del quale convivono comunità di lingua diversa e con aspetti che richiedono appunto una formazione mirata. Daniele Letti, TGR Friuli Venezia Giulia. Con l'obiettivo di rilevare l'epidemiologia e la prevalenza delle malattie cardiache nella popolazione di ultra 65 anni, descrivendone i profili di rischio e le patologie cardiovascolari che più frequentemente la colpiscono, è stata svolta dal 22 al 25 maggio un'indagine di comunità Duino Aurisina in collaborazione con il Comune e Asugi. L'iniziativa rientra nell'ambito dello studio nazionale prevalenza delle malattie cardiovascolari. In totale, riporta una nota, sono state valutate 199 persone, di cui il 62,8% donne, tutte residenti a Duino Aurisina e con un'età media di 70 anni. Il 18,5% è risultato obeso, oltre il 50% è in trattamento per ipertensione arteriosa e il 32% assume statine. Pochi hanno avuto pregresse patologie cardiovascolari di tipo ischemico, rare le alterazioni dell'elettrocardiogramma e le alterazioni valvolari significative dell'ecocardiogramma. Buona la percezione dichiarata della propria qualità di vita, con un punteggio di 78,5 su 100 alla domanda su come ti senti oggi. Infine, 9 persone sono apparse meritevoli di ulteriore approfondimento per sintomi suggestivi di malattia coronarica, scompenso cardiaco, malattie valvolari o aritmie. Oggi è la giornata mondiale contro l'abuso e il traffico illecito di droga, istituita per ricordare che il problema della droga costituisce una seria minaccia per la salute pubblica, la sicurezza e il benessere dell'umanità, in particolare dei giovani. Se ne è parlato questa mattina a Buongiorno Regione con il procuratore capo del Tribunale per i minorenni del Friuli Venezia Giulia, Nicola Russo. Lo spaccio, piccoli furti e rapine per avere una piccola somma per acquistare la droga, ma anche maltrattamenti che avvengono in famiglia dove si creano situazioni esplosive. Sono questi i reati compiuti dai minori in Friuli Venezia Giulia e legati al consumo e allo spaccio degli stupefacenti. Per quanto riguarda la nostra regione, tendenzialmente non abbiamo grosse situazioni, insomma, allarmanti come possono essere in altre situazioni. Non abbiamo situazioni di minori legati alla criminalità organizzata, non abbiamo nemmeno delle terre di nessuno come abbiamo avuto in passato il famigerato Bosco di Rogoredo, insomma sono tutte situazioni che monitoriamo. Le conseguenze nelle procedure civili sono di tipo amministrativo, come ad esempio l'impossibilità di espatriare o di fare la patente. In quelle penali invece si preferisce instradare il minore verso il percorso di messa alla prova. Ne nasce una sorta di subprocedimento all'interno del processo penale nel quale il minore viene coinvolto in una serie di attività di volontariato o comunque viene seguito dai servizi sanitari interessati, appunto quello che abbiamo visto delle dipendenze, nel quale il minore deve svolgere una serie di attività e contemporaneamente viene seguito dal servizio sanitario affinché possa riuscire, insomma, a lasciarsi alle spalle questo tipo di vissuto per poi essere reinserito nella società, insomma libero anche dalle conseguenze di un eventuale processo. Le funzionano da deterrente per i ragazzi? Qual è il futuro per questi ragazzi? Funziona più che altro l'inserimento nel circuito del processo penale, nel senso che il processo penale minorile, a differenza di quello degli adulti, è proprio finalizzato ad una rieducazione, a un reinserimento sociale del minore, a superare tutte quelle difficoltà del suo percorso di crescita e quindi a poterlo estradare verso un'età adulta senza problematiche di questo tipo. Trieste, Vaciuk, TGR, Friuli Venezia Giulia. In seguito al sequestro di 75 kg di vongole pescate illegalmente, operazione condotta dall'ufficio circondariale marittimo di Grado all'alba di mercoledì a Punta Sdoba, vicino alla foce dell'Isonzio, il consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Monfalcone prende posizione con una nota. I pescatori, si legge, a causa di una forte e progressiva carenza di risorse che ha colpito i banchi naturali, non praticano la pesca delle vongole di mare dal 2018, con conseguenze economiche che hanno lasciato il segno. La pesca è stata sospesa volontariamente dai pescatori per preservare i banchi di vongole, sperando in un ripristino ambientale. Sono state portate a termine tra il 2019 e il 2021 due opere di riattivazione produttiva con l'immissione di prodotto vongola di mare Peverassa nelle aree dei banchi naturali. Il consorzio di gestione ringrazia la Capitaneria di Porto per la vigilanza e auspica all'intensificazione dei controlli in tutte le aree del compartimento, perché solo attraverso una proficua collaborazione si possono scongiurare comportamenti scorretti verso il consumatore finale, verso gli operatori del settore pescatori con la raccolta di prodotto in aree non consentite e prive della filiera di controllo per la sicurezza alimentare e verso l'ambiente con l'utilizzo di mezzi di raccolta non idonei. Un convegno per fare il punto sulle comunità energetiche rinnovabili rivolto a tecnici e amministratori comunali per favorire la circolazione di informazioni su questa modalità di produzione di energia. È quello organizzato dall'Agenzia per l'Energia del Friuli Venezia Giulia, APE, che si svolgerà alle 14.30 nella sede della Regione di Udine. Abbiamo intervistato il direttore di APE, Matteo Mazzolini. Il convegno si rivolge ai decisori politici e tecnici delle amministrazioni locali in primis e in generale a tutti coloro che sono interessati alle comunità energetiche. Gli obiettivi sono quelli di aggiornare le informazioni riguardo allo sviluppo delle comunità energetiche, soprattutto con riferimento al quadro normativo che non è ancora completo, siamo in attesa dei decreti attuativi, e sia per quanto riguarda invece le prime esperienze di comunità energetiche sul territorio regionale. Ne presenteremo una con dettagli di numeri e simulazioni. Quali sono invece le prospettive economiche favorevoli di una comunità energetica rinnovabile? Le comunità energetiche rappresentano un cambio di paradigma significativo nel panorama nazionale ed europeo, perché permettono per la prima volta a tutti di essere sia consumatori di energia, come lo siamo già, ma anche produttori di energia. E quando l'energia prodotta eccede quello che è il fabbisogno della famiglia o dell'azienda, quindi il fabbisogno soggettivo, questa energia può essere condivisa all'interno di una comunità che può assumere varie forme, la cooperativa, l'associazione, quindi può essere condivisa tra i membri e in questa maniera può essere massimizzato l'utilizzo delle fonti rinnovabili. Questo è incentivato dallo Stato in questo momento anche attraverso degli schemi di incentivi che permettono di ricevere un premio per tutta l'energia che è stata condivisa all'interno della comunità. Ecco, qual è l'approccio degli enti locali alla costituzione di comunità energetica? C'è attenzione? C'è grandissimo interesse. Questa è una delle ragioni anche per cui organizziamo questo convegno, perché i comuni si vedono giustamente come promotori di questa iniziativa e vedono anche la loro funzione pubblica di favorire la disseminazione delle informazioni e la creazione di una cultura in tal senso, una cultura nuova, quella di produrre e consumare energia che non appartiene alla quotidianità dei cittadini, quindi è necessario parlarne, fare in modo che circolino le informazioni. Daniele Lettig, TGR Friuli Venezia Giulia. Ai giovani che per la prima volta si insediano in qualità di capo d'azienda in un'attività agricola, la Regione ha riservato un pacchetto di risorse pari a 2,4 milioni di euro che prevede la concessione di singoli premi da 70.000 euro per ogni richiedente. Lo ha deciso l'esecutivo guidato da Massimiliano Fedriga. Per poter beneficiare del contributo, i richiedenti devono essere insediati per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda e avere un'età maggiore ai 18 anni e inferiore ai 41 anni non compiuti. Devono inoltre possedere un'adeguata formazione e competenza professionale, oppure si dovranno impegnare ad ottenerla entro 36 mesi dalla concessione o entro il termine di conclusione del piano aziendale. Infine, coloro che presenteranno la domanda dovranno essere agricoltori in attività oppure impegnarsi ad acquisire la qualifica entro 18 mesi dall'insediamento o dalla concessione del sostegno. Dal 2 luglio al 3 settembre torna Carni Armonie con la sua 32esima edizione, 36 concerti in 27 comuni di Carni, Valcanale e Canal del Ferro. Ne abbiamo parlato con il suo direttore artistico Claudio Mansutti, che oggi l'ha presentata alla stampa. Tanti concerti, tanti bellissimi luoghi. Iniziamo con Mario Brunello, grande ritorno del più grande violoncellista italiano, che con l'orchestra regionale a Sochieve farà un bellissimo concerto. Alcuni focus, ad esempio l'omaggio a Maria Callas con un concerto in cui sentiremo anche la sua voce in originale, e Rachmaninoff nei 150 anni con un bellissimo concerto, e poi diversi generi, jazz, pop, musica classica, gruppi giovani nuovi, gruppi affermati, in maniera tale da riempire di musica tutta la montagna, sia per chi ci vive, che così è un'occasione, ma per i numerosi turisti che la riempiono sempre di più e così ogni sera possono avere la possibilità di sentire qualcosa di diverso. Qualche altro nome, soprattutto per i generi che non sono quelli classici, quello del pop per esempio? Ma diciamo c'è una cosa molto simpatica con vicino lontano Mont, ad esempio, che c'è il ritorno molto atteso degli FLK, che per l'occasione si rimettono assieme, ma poi ci sarà un concerto tutto sulle musiche di Sting, veramente una cosa etnica tutta sulla musica del sud Italia, quindi loro di Napoli, ma loro senza apostrofo, e così avanti con Mauro Tolini, ad esempio, il suo trio, quindi ce n'è veramente per tutti i gusti. Siamo allo sport con il calcio. Federico Balzaretti è il nuovo responsabile dell'area tecnica dell'Udinese. L'ex dirigente di Roma e Vicenza approda nel club friulano firmando un contratto fino al giugno 2025. Subentra nel ruolo ricoperto nelle ultime stagioni da Pierpaolo Marino. Balzaretti, da calciatore, ha disputato oltre 400 gare da professionista, indossando le maglie di Torino, Juventus, Roma e Fiorentina, oltre a quella della Nazionale Azzurra per 23 volte, raggiungendo la finale agli Europei 2012. Parliamo in chiusura dell'iniziativa dell'Astad di Trieste, la ONLUS che gestisce il rifugio per cani abbandonati di Opicina. Questa mattina a Barcola, grazie al permesso concesso dal Comune di Trieste, alcuni cani hanno potuto fare il bagno nella spiaggia dei Topolini. Un'allegra gita al mare per una decina di amici a quattro zampe davanti agli occhi divertiti dei bagnanti presenti. I volontari dell'Astad hanno poi provveduto alla pulizia della spiaggia. Alle 12.55 minuti e 44 secondi era questa la nostra ultima notizia, collaborato in redazione Valentina Veneruso, per la parte tecnica Mauro Cumin e Bruno Montevecchi. Da Sebastiano Franco e Armando Mucchino, grazie per l'ascolto e l'augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.